Eccoci al cinema su Visionari, su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso anche subito dopo il giornale radio, che tra l'altro oggi non è andato in onda, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio, ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Allora, abbiamo subito con noi il primo ospite di questa puntata, di questo giovedì, 1° giugno del 2017, e abbiamo il signor Daniele Biacchessi, il regista della di un documentario di cui ha avviato una campagna di crowdfunding. Il titolo è Una generazione scomparsa, ai mondiali in Argentina del 1978. Daniele, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Tutto bene? Benissimo, e dunque questo è il quarto progetto cinematografico che ho avviato dopo Giovanni Enori, dedicato alle figure di Giovanni Pesce e di Nori Brambilla, poi con I Carnefici, la storia di un nonno che racconta in una notte di fine estate a Montesole, a Marzabotto, di essere uno scampato alla strage nazifascista. Poi Il sogno di Fausto Iaio, che è stato proiettato in 150 luoghi diversi nel paese, che ha avuto un grande successo, e questa idea produttiva, quindi di accompagnare e farsi accompagnare dal proprio pubblico, ha certamente funzionato, e a maggio è uscito il mio 27° libro, che si chiama Una generazione scomparsa, i mondiali di calcio in Argentina nel 78, riguarda 30.000 desaparecidos, almeno 500 centri di detenzione e di tortura, i voli della morte, di cui oggi abbiamo conoscenza perfino dei piani di volo, sono stati desecretati da parte del Dipartimento di Stato americano, una lunga serie di file che erano stati piazzati sopra la parola omissis, e quindi non si sapeva poco o nulla, ma con quello che emerge la cifra di 33.000 persone che mancano l'appello dal 76 all'83 in Argentina, è solo un numero per difetto. L'orrore disseminato in tutto il paese, le cui conseguenze sono ancora vive nella memoria del popolo argentino, alla domanda del fatto che noi italiani, comunque alcuni italiani, hanno avuto un ruolo determinante nella realizzazione del colpo di Stato, uno tra tutti, dice Gelli, che praticamente si trovava ben prima del 76 e anche poco dopo in Argentina, con tutti i generali, da Massera, Videla e Galtieri, erano tutti iscritti alla Loggia Massonica P2. Tra l'altro, Daniele, tra l'altro diversi italiani o con doppia cittadinanza invece furono tra le vittime della dittatura. E infatti il libro, ma anche naturalmente il film, si basa sul fatto che oggi sappiamo molte più cose di alcuni anni fa, anche grazie a queste inchieste che si sono realizzate nel nostro paese, e a due processi sull'ESMA, quella di meccanica dell'Armada, uno dei centri di tortura a cui sono passati, e di morte, a cui sono passati circa 5.000 persone, e molti di loro erano anche cittadini italiani, e quindi per questo, per la loro morte, per la loro scomparsa, si sono aperti processi in Italia che hanno condannato in via definitiva fino alla Cassazione molti dei carnefici, che però non sono mai stati consegnati alle autorità italiane ammesso che ci sia stato da parte delle autorità italiane una voglia di riaverli, sì, e di dare una giustizia piena. Ma al di là di questo, secondo me forse il processo più importante che si è tenuto in Italia, e da cui ho tratto moltissimo materiale, moltissima documentazione, è il processo per il cosiddetto Plan Condor, Piano Condor, che era un accordo che era stato fatto da variati paesi, tra cui l'Argentina, Brasile, Perù, Colombia, Uruguay, Argentina e Cile, naturalmente, il Cile di Pinochet. Nel 1985, attraverso il direttore di allora della DINA, che era la polizia fascista di Pinochet, iniziò un accordo con tutte le polizie di questi paesi per perseguire e per uccidere, anche per compiere stragi, anche ferate, contro oppositori politici dei vari paesi in altri paesi. Lì dentro c'è proprio il sistema, sì. Io ho voluto realizzare, quindi questo libro è anche naturalmente sarà la base di questo film, che si chiamerà appunto Una generazione scomparsa. Ma uno si domanda cosa c'entrano i mondiali di calcio in Argentina nel 78. C'entrano per tanti motivi, perché a 300 metri di distanza, dove si teneva la finale Argentina-Olanda in Avenida Libertadora, Buenos Aires, c'era quella di meccanica dell'armada. Eppure siamo andati noi stessi, anche italiani, a giocare. La nostra nazionale aveva battuto anche perfino l'Argentina con un gol di Bettinger, era una squadra tutta incentrata nel cosiddetto blocco Juve, con già l'attaccante prodigio della Rossi Vicenza, che era Paolo Rossi, diventato poi una squadra campione del mondo solo 4 anni dopo. Ma l'Argentina doveva vincere a tutti i costi, e soprattutto il suo potere criminale doveva essere nascosto, e il calcio poteva in qualche modo dare, così come ha dato, sostegno a questo gruppo di criminali, di delinquenti, che fecero sparire una generazione, tutti giovani, in gran parte militanti dell'ERP, dell'esercito rivoluzionario del pueblo e dei Montoneros, della sinistra peronista, ma anche i singoli cittadini, persone comuni. Nel libro, ma poi anche nel film, che è tutto disegnato con l'illustrazione di Giulio Peranzoni, con la tecnica LDP e col 3D di Matteo Lasi, quindi c'è anche uno scatto non solo produttivo ma anche cinematografico di questa tecnica, che in Italia non è mai stata fatta e non è stata mai messa sul campo. I primi docufilm sono stati realizzati appunto da noi. L'idea, ovviamente, è inutile dirvi, che è quella della memoria, di una memoria viva, una memoria che passa attraverso le generazioni. Questo ce lo siamo detti molte volte, e chi meglio delle madri di Plaza de Mayo e soprattutto delle abuelas, delle nonne di Plaza de Mayo, che oggi cercano i figli di quelle persone che erano state torturate, delle donne, cui donne erano state torturate e uccise subito dopo aver messo al mondo le proprie creature, che sono state strappate via, vendute, quindi dei furti anche di neonati, che sono centinaia quelli che sono stati trovati negli ultimi anni dalle abuelas, anche attraverso la prova del DNA, che sì, molti anni fa naturalmente non c'era, oggi c'è. Insomma, io credo di sto facendo un film necessario. Era una storia che avevo letto fino ai tempi del 78, quando ero obiettore di coscienza, quando il servizio civile si faceva in Italia, che durava 24 mesi. E gli ultimi mesi di quel servizio civile l'ho fatto a Milano, nella sede di Amnesty International. di allora, arrivarono questi ragazzi, questi giovani scappati, impauriti, che tentavano disperatamente di ottenere uno status di rifugiati politici. Pensate quanto è assolutamente attuale ancora, sì, ancora sì, oggi sì. Purtroppo questa storia. Sì. E noi potevamo fare gli impiegatini, cioè chiedere le generalità, perché la polizia, i carabinieri, diciamo lo Stato italiano se ne era ampiamente fregato della situazione di queste persone, che non erano decine, centinaia, ma ormai nel 78 cominciavano a diventare alcune migliaia con i cileni, se pensate, gli uruguayani e i brasiliani, che fuggivano comunque dalle dittature. Sì. E invece di tenere loro soltanto le generalità, mi accorgevo che molti di loro volevano raccontare qualche cosa, volevano raccontare le loro vie di fuga, come erano scappati, come erano fuggiti, il buio che delle notti di Buenos Aires, il buio intorno alle loro abitazioni, i loro amici che scomparivano, i loro compagni di partito, di movimento, che cominciavano a non esistere più, a non tornare più a casa. E allora ho cominciato a azionare il registratore e a mettere insieme una serie di queste storie, però non le ho mai usate. Man mano che arrivavano, sono passati gli anni, man mano che diciamo ho potuto ricordare questa storia, l'ho fatto, cioè l'ho fatto e lo sto facendo, ho fatto con un grande spirito, credo, di servizio pubblico, sì, di servizio pubblico nella memoria. Sì. Purtroppo, come sai, ci sono tante persone che parlano intorno a noi, ma non fanno praticamente un cazzo nella loro vita, nella loro esistenza. Parlano senza fare un cazzo. Io almeno tento di fare qualche cosa, insomma, cerco di migliorare, se non le condizioni, quantomeno le coscienze delle persone. Ricordare significa anche scuotere un po' le coscienze, un po' la trapite di questa sinistra italiana, sì. Che forse non si ricorda che ci sono stati colpi di Stato feroci in Cile. Spero che si ricordi che ci sono state alcune decine di migliaia di persone morte in Argentina, e che gran parte di loro portavano nomi e cognomi italiani, che ci furono scioperi importanti contro, per esempio, il rame che arrivava dal Cile di Pinochet, e che sono state anche quelle battaglie nei porti di Londra, di porti inglesi e anche italiani, che hanno fatto sentire meno soli chi combatteva in quei luoghi per la democrazia, per il ritorno della democrazia. Sì. Senti Daniele, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per partecipare alla campagna? Ma guardate, andate su Facebook innanzitutto e vedete che c'è una pagina che si chiama Una generazione scomparsa. Il film ancora non c'è, ma ha quasi 10.000 like, che non vuol dire nulla, però insomma, diciamo, c'è abbastanza interesse, molto interesse. Metà di quelle persone sono argentine. Vedete che c'è anche un grande dibattito all'interno di quella pagina sul piano così proprio della memoria, del ritorno alla memoria. E poi c'è la pagina su bigcrowdy.com, dove vedete che è appunto in apertura c'è il nostro progetto, che ormai a oggi viaggia intorno al 90% dall'obiettivo, quindi possiamo dire che è quasi finanziato. Ma che la cosa più importante non è tanto il finanziamento, diciamo, di un progetto, ma quanto la sua distribuzione, il fatto che ci sono anche molte proiezioni in giro per l'Italia che sono state prenotate attraverso la piattaforma, esattamente come il sogno di Fausto Iaio, ha dato ai film la possibilità di farli vedere in giro. Certo, questa è la cosa è più importante, perché finché ce li vediamo noi a casa, sì, ecco, una cosa bella, ma sì. È importante, certo, quando certo. Si spengono le luci del cinema e vedere tanta gente, vedere, parlare, discutere, anche animatamente, però parlare è un grande segno di civiltà, no? Indipendentemente dalle idee che possono essere positive o negative nei confronti di un film, però diciamo che certo. Penso diciamo che sia chiaro, e tu mi conosci, ma anche molti tuoi ascoltatori, che sto facendo tutto questo per la grande passione civile che mi fa andare avanti, cioè, e anche per il fatto che comunque a tanta gente che parla e dicevo e non fa un cazzo, ci corrispondono anche tantissime persone che invece si impegnano e che continuano a sperare in un cambiamento di questo paese. Daniele, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio grande a tutti, a te e a tutti. Daniele Biacchessi, regista del documentario Una generazione scomparsa, i mondiali in Argentina nel 1978, che ha avviato una campagna di crowdfunding proprio per questo documentario. E abbiamo con noi Alessandro D'Alessandro di Four Rooms Film, sulla produzione del film Il Nido della Tortora di Taras Ciacenko, che sarà Ciacenko, sì, al Cinema Farnese qui a Roma, in proiezione oggi, domani e il 4 giugno. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Ciao a tutti. Allora, intanto per chi ci ascolta, raccontiamo per sommi capi la storia, la trama di questo film. È la storia di una badante, di una donna ucraina che si trasferisce in Italia per lavorare, trova lavoro come badante, lascia in Ucraina una famiglia, un marito, una figlia grande, e qui in Italia per vicende, per somme vicende, diciamo, si ritrova a diventare l'amante del figlio della donna per cui lavora. Quando torna in Ucraina è incinta e deve decidere se tenere il bambino oppure e rovinare in qualche modo la sua famiglia ucraina, oppure invece tenerlo tenerlo invece cercare una vita nuova in Italia, ecco. Questo è sommi capi, sì, la sì. Storia. Senti, Ciacenko è conosciuto a livello internazionale come regista? Allora, diciamo che questo è stato il suo primo film, okay. però questo film ha avuto grande successo a livello nazionale in Ucraina e internazionale, perché ha vinto vari festival, tra cui il Festival di Mannheim, che è un festival in Germania che proietta solo opere prime, e ha vinto il Festival internazionale del cinema di Odessa, e poi ultimo mese scorso ha vinto con questo film 6 Academy Awards dell'Ucraina, quindi gli Oscar, diciamo, dell'Ucraina, tra cui miglior regista, miglior film e altri 4 premi. Senti, per questo è all'interno di una rassegna di cinema ucraino proprio al Cinema Farnese qui a Roma, e ci parli anche un po' dell'esperienza produttiva della Four Rooms Film? Allora, esatto, questo l'abbiamo inserito all'interno di la prima rassegna di cinema ucraino in Italia, che è stata organizzata da noi insieme all'Agenzia del Cinema Ucraino, quindi il Ministero del Cinema Ucraino, e la Fondazione Igor Jankovsky, che è una fondazione ucraina che si occupa, diciamo, di promuovere le attività culturali ucraine. È stato un modo, diciamo, per unire le due cose. Comunque noi avremmo fatto una premiere del nostro film, e è stato un modo anche per poter raccontare diversi aspetti della cinematografia ucraina, far vedere un po' punti di vista differenti, anche approfondire quelle che sono le tematiche care in questo momento all'Ucraina, la diaspora, chiaramente, cioè il movimento di persone che vanno a lavorare fuori dal paese, ma anche il conflitto generazionale, perché facciamo vedere un documentario che parla proprio di generazioni a confronto, si chiama Living Fire, quindi fuoco vivo, oltre questo anche facciamo vedere un film degli anni 70, quindi realizzato ancora in periodo sovietico, che si chiama Uccello Bianco con Segno Nero, che è un film che quando il regista fece uscire poi fu censurato e il regista fu bandito da qualsiasi incarico creativo per 10 anni, perché era la prima volta che si parlava di una nazionalità ucraina in Unione Sovietica. Questa era una cosa molto molto grave all'epoca, questa è una cosa di cui siamo abbastanza, come dire, abbastanza fieri, insomma, di aver portato questo film. Sì, sì. Senti Alessandro, visto che è la prima volta che interagiamo, ci parli anche di Four Rooms? Certo, Four Rooms è una casa di produzione nata un paio di anni fa, mia, diciamo, di altri soci, tutti legati al mondo del cinema. C'è uno sceneggiatore, un regista, una fotografa e oltre a me che faccio il produttore. Ha come scopo quello di realizzare coproduzioni internazionali, quindi noi non facciamo solo film nazionali, ma facciamo esclusivamente progetti che possono avere un audience più vasta e che possano trovare soci in altri paesi, non solo d'Europa ma di tutto il mondo. Adesso l'Ucraina è uno, ma noi abbiamo progetti anche con la Malesia, con l'Irlanda, con i paesi dell'est Europa, insomma Croazia, Macedonia. Facciamo sia film, quindi feature film, e documentari. In qualche maniera ci stiamo anche avvicinando alle serie televisive, insomma alla televisione, però timidamente. Bene. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul film, sulla rassegna e su di voi? Certamente, allora la rassegna del cinema ucraino si può trovare online su www.ucrainacinema.it, mentre il sito internet della società di produzione è forroomsfilm, scritto con il 4 come numero, .it. Un abbraccio Alessandro, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, arrivederci a tutti, ciao. Alessandro D'Alessandro di Four Rooms Film sulla produzione del film Il Nido della Tortora di Taras Kachenko al Cinema Farnese qui a Roma oggi, domani e il 4 giugno. Eccoci con Valerio del Piccolo Cinema America per parlare dell'inizio del Festival Trastevere Rione del Cinema, Piazza San Cosimato, l'arena all'aperto da oggi fino al 1° agosto, 2 mesi di rassegna. Intanto ben ritrovato Valerio. Ciao, grazie Federico, ciao a tutti. Allora, si parte oggi, raccontaci un po' com'è stata questa programmazione. Allora, la programmazione è stata abbastanza complessa perché comunque è il terzo anno di iniziativa e dovevamo cercare di rassinarci su alcune cose, e quindi la prima scelta ad esempio è stata quella di proiettare tutto in versione originale, tutte le rassegne e tutte le proiezioni quindi avranno versione originale sottotitoli in italiano, mentre i Disney per i bambini saranno in italiano. Allora, tutto chiaramente gratuito. Gratuito, primo giugno, primo agosto. Il programma è su www.trastevirecinema.it. Ok, e anche si differenziano le giornate rispetto alle proposte. Ci sono i documentari e poi altre categorie, vero? Esatto, allora abbiamo il lunedì due rassegne, una su Antonioni e una su Gigi Magni. Poi il martedì abbiamo Faradi e David Lynch, mi sembra Faradi a giugno, David Lynch a luglio. Il mercoledì abbiamo tutti dei documentari under 40 selezionati per il concorso Angelo Di Castro, il vincitore di questi avrà un premio di 1000 euro per il regista, sarà programmato nel cinema Troisi, mentre il giovedì e il venerdì ospiti che vanno da Bernardo Bertolucci a Gabriele Salvatores, da Faradì, Babak Karimi fino a Matteo Rovere, Veloce come il Vento, Giovannesi Confiore, Indivisibili con Edoardo De Angelis, mentre il sabato i classici Disney e domenica tutto restaurato in digitale in versione originale di Stanley Kubrick. Senti, la risposta del quartiere dopo queste prime edizioni? No, la risposta è stata fantastica e c'è stato un tentativo da parte di una consigliera comunale dei 5 Stelle, Gemma Guerrini, di motivare, di dimostrare che il territorio non è a nostro sostegno, ma fortunatamente in 4 mesi di raccolta firme sono riusciti a raccogliere solo 22 firmatari che non vogliono la pena, un'altra prova che gli è andata contro del fatto che noi siamo ben voluti da questo territorio e che questo territorio vuole l'arena di Piazza San Collimato. Bene. Senti, per allora facciamo così, visto che la trasmissione si occupa spesso e volentieri dei documentari, visto che c'è la giornata del mercoledì, noi ad ogni trasmissione del giovedì potremmo ospitare telefonicamente chiaramente alcuni degli autori del mercoledì successivo. Ci prendiamo questo impegno. Impegno e poi vi metterò in contatto con i ragazzi che hanno seguito il concorso e fatto la selezione, così non sono sempre io a parlare ma verrà riconosciuto il lavoro degli altri. Perfetto, anzi parliamo proprio possibilmente con i registi, che è la cosa migliore. Esatto. Valerio, un abbraccio, in bocca al lupo, ci si vede a Piazza San Cosimato. Ciao a tutti. Il piccolo Cinema America per parlare del Festival Trastevere Rione del Cinema a Piazza San Cosimato, l'arena all'aperto dal 1 giugno al 1 agosto. Abbiamo in collegamento Gaetano Capizzi, direttore della 20ª edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio al 5 giugno, un appuntamento che seguiamo ogni anno. Siamo arrivati alla 20ª edizione e a questo festival abbiamo dedicato anche la copertina della trasmissione di questa settimana, con la foto del logo che rappresenta il pianeta Terra come un gomitolo di lana. Gaetano, ben ritrovato. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Allora, 20 edizioni sono veramente tante. Allora, raccontaci un po' com'è nato all'inizio e come si è sviluppato Cinema Ambiente. Sì, 20 anni, soprattutto diciamo, nel campo dell'ambiente e dell'ambientalismo, sono tanti, perché in questi 20 anni è successo un po' di tutto. Ecco, no? E quelli che erano, diciamo, degli allarmi che 20 anni fa venivano lanciati, oggi sono diventate delle realtà drammatiche, perché si parla di, una volta si diceva, attenzione, forse l'aumento di CO2 provocherà cambiamenti climatici. Oggi siamo nel mezzo del problema, vediamo tutti i giorni le conseguenze del cambiamento climatico, che sono anche, diciamo, quelle riguardanti le ondate migratorie, perché appunto, l'instabilità ambientale crea poi tutta un'instabilità politica e sociale, e tanti, diciamo, abbandonano le loro terre, no? Per siccità, per appunto carestie che vanno avanti per anni, per cui siamo nel mezzo del problema. Però è anche vero che in questi 20 anni la coscienza ecologica è cresciuta e sempre molta più gente si interessa ai temi della salvaguardia del pianeta, della sostenibilità, del nostro stile di vita. Come anche il cinema, Gaetano, credo, da quello che vedo, insomma, sempre più soprattutto documentari si occupano dell'ambiente che ci circonda. Sì, quello del cinema ambientale è diventato un vero genere cinematografico. Tutti gli anni c'è una grande vivacità in questo settore del documentario di tipo sociale, diciamo, che si occupa di temi ambientali, e sono documentari di largo respiro che spesso hanno anche, diciamo, degli incassi notevoli, no? Sono entrati in gioco anche le grandi case di produzione realizzano questo tipo di film, perché c'è consapevolezza ambientale, c'è un pubblico che li va a vedere nei canali in cui si vede il cinema, sia in sala che in televisione che online, insomma. Poi quello, diciamo, della fruizione dei film è un discorso più ampio, no? Che va al di là del genere ambientale, riguarda tutto il cinema, insomma, che si sta evolvendo di giorno in giorno anche questo aspetto, è quello della fruizione cinematografica dove viene effettuata, no? Ricordiamo che da poco è terminato il Festival di Cannes, e almeno due film del festival non saranno mai distribuite nelle sale, perché sono stati prodotti da Netflix, che non ha intenzione di far uscire nelle sale ma solo in televisione, no? Per cui questo è un ulteriore, diciamo, passo, salto che si è fatto nella distribuzione cinematografica. Ma il genere ambientale sta seguendo, diciamo, queste grandi correnti. Senti Gaetano, quante sono le opere che presentate in questa edizione e come è strutturato il festival? Sì, sono 105, sono film, tutti in anteprima italiana, è frutto di una selezione da 1500 film che abbiamo ricevuto. Questo dimostra ancora una volta la vivacità del genere ambientale, no? O ambientalista nel cinema. Abbiamo delle sezioni competitive, no? Per cui tre grandi sezioni, quelle dei documentari internazionali, quelle di, diciamo d'autore, ecco, quelli un po' più standard, che non è una sezione one hour, sono questi documentari da 52 minuti fatti per la televisione, che diciamo magari spesso non hanno un taglio artistico, no? Ma affrontano dei temi molto interessanti. E poi c'è la competizione dei film italiani, no? Abbiamo una sezione apposita perché vogliamo in qualche modo incentivare la produzione di film ambientale anche in Italia, perché queste tre sezioni hanno dei premi, hanno i registi presenti, il Quattrolino, e poi abbiamo tutta una serie di film per ragazzi, abbiamo degli eventi speciali, abbiamo delle produzioni fatte apposta per il festival, abbiamo convegni, è un festival che partendo dal cinema poi investe un po' la città di Torino, certo, sotto vari livelli. Addirittura abbiamo delle proiezioni sull'esterno della Mola Antonelliana, per cui il monumento simbolo di Torino si anima la notte con animali che camminano sulla sua facciata, è una cosa suggestiva. Senti Gaetano, i temi, le questioni più ricorrenti nei lavori che presentate ce ne sono? Ma sicuramente il cambiamento climatico è il tema dei temi, no? È vero che l'ambiente è una parola che include tanti argomenti, tanti aspetti, e noi cerchiamo di affrontarli. C'è la plastica che ritorna sempre in modo ossessivo un po' nel nostro festival, con un film, abbiamo una serie di film, tra l'altro uno veramente d'impatto che si intitola Plastic China, e che insomma ha vinto già riconoscimenti internazionali, ma poi tanti film su questo argomento. Il tema degli animali, quest'anno lo sottolineiamo molto, insomma lo sfruttamento degli animali, sia per l'alimentazione, sia per i traffici illeciti come quello dell'avorio, sia gli animali torturati per farli lavorare nei circhi, no? Per cui da Torino partirà una campagna in appoggio a una proposta di legge per vietare l'utilizzo di animali nei circhi qui in Italia. E poi abbiamo l'agricoltura, che ritorna l'agricoltura contadina, cioè quella su piccola scala, che è l'agricoltura più diffusa al mondo, è l'unico modello agricolo che può reggere un aumento della popolazione di questa portata che si sta verificando in questi anni. E abbiamo poi, parleremo di stili di vita alternativi, non parleremo di Transition Town, verrà presentato il rapporto di Legambiente sulla Green Society. In Italia esiste una società green fatta da tante piccole esperienze, a volte spesso scollegate tra di loro, ma che si sta cercando di connettere come un puzzle per costruire far emergere questa realtà, no? In modo che sempre più persone possano seguire modi di vita a basso impatto ambientale. Mm-hmm. I temi sono tanti, la vivacità è tanta, si possono trovare tanti argomenti, tanti problemi e tante soluzioni a questi problemi. Gaetano, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Assolutamente, c'è tutto su cinemaambiente.it e sulla app anche Cinemaambiente 2017. L'ingresso è libero, è gratis, è gratuito, perché questi sono film che devono essere visti da più persone possibili, per cui su cinemaambiente.it troverete informazioni, trailer e tutte le modalità di accesso. Benissimo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto Gaetano. Grazie, ciao. Gaetano Capizzi, direttore della 20ª edizione di Cinema Ambiente a Torino da ieri 31 maggio fino al 5 giugno. Allora, siamo in collegamento con Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, registi del film Sicilian Ghost Story, uscito in sala il 18 maggio scorso. Intanto ben ritrovati, ci eravamo sentiti anche per il lavoro precedente, giusto? Salvo, sì. salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, intanto per chi ci ascolta, vi alternerete nelle risposte. Cominciamo con raccontare per sommi capi la trama di questo film. Guarda, la trama generalmente preferiamo non raccontarla. Diciamo che il film, certo, vuole essere un omaggio a un bambino che ha avuto un brutto destino in Sicilia negli anni 90. L'omaggio volevamo fare, però volevamo farlo tramite una grande storia d'amore fra due ragazzini. Quindi la nostra storia è una storia d'amore fra due ragazzini, un amore così forte, la loro determinazione è così forte che riescono in qualche modo a sconfiggere il mondo mortifero che li circonda. Sentite, come mai avete scelto questa prospettiva? Perché il bambino che ha subito il destino che ha subito è un bambino che è stato deprivato fondamentalmente dell'amore. E allora noi volevamo una storia che provasse un atto d'amore per lui e che fosse declinato sotto l'insegna di un amore potente che non arretra di fronte al male e che lo combatte con ferocia, con determinazione, lo sconfigge. Mm-hmm. Tanto il film, ho avuto modo di vederlo, vi faccio i complimenti, soprattutto dal punto di vista stilistico, è veramente un piacere per gli occhi. Ecco, da questo punto di vista, quali sono stati e quali sono i vostri riferimenti estetici? Il film è una favola, come diceva Fabio, ed è ambientata nel Parco dei Nebrodi, che è un parco siciliano tra le province di Messina e di Catania. Sì. È una zona di boschi altissimi e di laghi, e quindi diciamo è lo scenario perfetto di una favola. È proprio alle favole, pensavamo quando abbiamo cominciato a ideare il film, a pensare alla messa in scena del film. Variety ha citato i fratelli Grimm, certamente sono stati un punto di riferimento, perché proprio nelle favole tradizionali c'è anche la paura, c'è anche l'orrore, e la favola rielabora questi sentimenti. Poi c'è un vecchio film americano che si chiama La morte corre sul fiume, con Robert Mitchum. Sì. Un film in bianco e nero dove ci sono due bambini che sfuggono a una specie di serial killer travestito da pastore che li insegue, e quel film per noi è stato un grande punto di riferimento proprio nella dimensione della favola, nella dimensione di un racconto che ha dei narratori segreti, occulti. Allora, dopo Salvo, un altro film che parla della Sicilia, della vostra terra, com'è il vostro rapporto con essa? Dunque, il rapporto è stato un rapporto difficile, perché noi siamo andati via dalla Sicilia proprio quando si è consumato il destino del bambino a cui abbiamo dedicato questo nostro secondo film. La storia di questo bambino è rimasto come un fantasma a perseguitare la nostra coscienza, e l'avere potuto con questo film in qualche modo prenderlo dal buio in cui è stato relegato e riportarlo alle luce, diciamo davanti agli occhi della gente, in qualche modo è stato per noi un percorso catartico, nel senso che abbiamo trovato un modo per ritornare in Sicilia, ma fuori, diciamo, da quella rabbia e da quel risentimento che a lungo hanno dominato i nostri sentimenti nei confronti della terra da cui veniamo. Mm-hmm. Credo uno di questi motivi sia nella ricerca, in ogni caso, di di recupero di una normalità, come si vede anche nell'accusa nel vostro film, che la cittadinanza continua ad avere nonostante le tragedie che avvengano lì vicino, l'intorno, tutto sembra c'è questa necessità, questo bisogno di comunque mantenere la facciata di normalità. Sì, il film è ambientato negli anni 90, che sono stati anni tragici e tremendi per la Sicilia, per la città da cui proveniamo, cioè Palermo. Erano gli anni delle guerre di mafia, erano gli anni dei cosiddetti delitti eccellenti, gli anni in cui i morti ammazzati si contavano in numero crescente con un numero sulla prima pagina dell'Ora. E sono anche gli anni in cui Fabio ed io eravamo ragazzini. In quegli anni lì ti veniva insegnato a fare finta di niente, ti veniva insegnato a far finta di vivere in un paese, in una città che magari è una città europea come tutti gli altri, ma non aveva nulla di simile alle altre città europee. Erano gli anni delle autobombe, e quindi questo tentativo di chiudere gli occhi, questa sorta di cecità volontaria, fa parte dell'esperienza di vita siciliana degli anni 90. Mm-hmm. Senti, da quell'omicidio che ha rappresentato anche un picco di crudeltà, cosa è cambiato? La mafia come si è trasformata e come si è trasformato anche l'atteggiamento della popolazione? Ma guarda, in realtà quello che è successo è che per fortuna a un certo punto si è deciso, in seguito a tragici avvenimenti, di far davvero la guerra a Cosa Nostra, di cercare davvero i latitanti, di smantellare quel tipo di organizzazione militare della mafia. Ci si è riusciti, anche perché molti appoggi politici, non solo politici, sono venuti meno. Quindi in questo momento in Sicilia la mafia non è più la mafia di quegli anni lì, è una mafia nettamente più debole, è una mafia che opera sul territorio ma con delle modalità da crimine organizzato quasi qualunque, Adesso c'è un vuoto in Sicilia sotto tutti i punti di vista. Sì. È un vuoto da alcune, rispetto alla potenza precedente della mafia, naturalmente è positivo, anche se alcuni problemi permangono. Il problema è che ancora le istituzioni latitano sotto molti aspetti, e allora è molto lasciato alla singola volontà degli uomini, di buona volontà, cercare di dare un orizzonte diverso di vita per se stessi, per i propri figli e per le generazioni future. Mm-hmm. Poi quello che succede, lo sappiamo, è che la mafia siciliana si è indebolita, anche perché che negli anni 90 la strategia stragista non gli ha portato fortuna e sono stati sconfitti dallo Stato, militarmente sconfitti dallo Stato. Ma la mafia intesa in senso più generale, cioè le mafie italiane, Camorra, 'Ndrangheta, sono tutt'altro dall'essersi indebolite, e ormai la differenza tra economia legale e illegale si va sempre più perdendo. Oh, tornando al film, facciamo anche un bilancio di questi primi giorni di programmazione. Sì, guarda, il bilancio per quanto ci riguarda è positivo, nel senso che noi stiamo accompagnando il film in molte proiezioni, prima in Italia, adesso è da una settimana che giriamo in Sicilia, e le proiezioni, la reazione del pubblico è una reazione bella e commovente, e quello che ci fa più piacere è anche il fatto che ci sono molti ragazzi in queste proiezioni, e questa cosa ci ha un po' sorpreso. Questo per noi è il dato più positivo, anche per quanto riguarda l'esperienza di proiezione qui in Sicilia, anche perché rispetto al nostro primo film, per fortuna Sicilian Ghost Story ha un boom di richieste anche nei paesi dell'entroterra e non solo nelle grandi città, e questo è un aspetto estremamente positivo. Poi c'è da dire che per quanto riguarda invece un aspetto più generale, naturalmente uscire in estate, era ridosso dell'estate, con un clima di questo tipo, senza un'adeguata, diciamo, preparazione, secondo noi non ha giovato all'impatto sul pubblico del film. Comunque il film, diciamo, avrà una seconda vita italiana in autunno, le molte scuole lo stanno richiedendo, e poi comunque comincia la vita all'estero. La grandezza del Festival di Cannes è determinata anche dal fatto che poi il film viene conosciuto e quindi viene richiesto e comprato dai paesi esteri, e così è stato per Salvo e così sarà per Cecilia Angostori. Bene, allora un abbraccio, un buon proseguimento e alla prossima. Grazie, ciao. Ciao Antonio, ciao Fabio, ciao. Ciao, buona giornata. Anche a voi, ciao. Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, registi del film Sicilian Ghost Story, uscito in sala il 18 maggio scorso. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film Una vita di Stéphane Brise, in uscita in sala oggi giovedì 1 giugno. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, a proposito degli ascoltatori, diamo qualche indicazione di trama rispetto al film. Il film è tratto dal primo romanzo di Guy de Maupassant, quindi parliamo di un periodo storico ben definito, parliamo dell'Ottocento e parliamo di un film in costume. Il regista ha voluto anzitutto trasmettere allo spettatore quelle che sono state le sue emozioni di lettore del romanzo, quindi quello che ha voluto sottolineare nell'incontro che abbiamo avuto con lui in questi giorni, è venuto a Roma a presentare il film, ci ha detto che il suo obiettivo era proprio quello di trasmettere emozioni più che fare una trascrizione, una trasposizione troppo fedele del romanzo, cosa che avrebbe probabilmente suscitato emozioni troppo blande. Invece lui è riuscito con questa messa in scena molto particolare, lo ricorderete per La legge del mercato, film di tutt'altro genere, però sì. Le sue note, diciamo, di regia sono rimaste anche in questo film, quindi con delle riprese molto focalizzate sui primi piani dei protagonisti e una visione del film, una proiezione del film in 4/3, che anche questa è una caratteristica un po' anomala rispetto alla normale fruizione in sala, è riuscito proprio a creare questa empatia tra spettatore e la protagonista del film, che è questa nobildonna in fase di decadenza economica a causa di vicissitudini della vita, appunto, che accompagniamo nel corso del film da momenti iniziali di gioiosi di vita familiare alle vicissitudini che dovrà affrontare, non solo economiche ma anche con perdita di affetti nel corso della vita. Però è un film comunque che si chiude con note di speranza, quindi non è un film cupo alla fine, da veramente da godere ogni immagine, ogni sequenza che Brise è riuscito a rendere veramente in modo esemplare, e ne ha dato merito tutta la critica all'ultima mostra di Venezia, dove era stato considerato uno dei più bei film in concorso. Anche rispetto al periodo storico che prende come riferimento, c'è una concezione dei tempi cinematografici, una dilatazione dei tempi che calza a pennello rispetto al periodo che prende in esame. Sì, diciamo che c'è in particolare un uso dei tempi molto particolare, c'è un utilizzo continuo di flashback e flash forward che accompagnano il film, dando anche un'interpretazione proprio dei tempi del romanzo completamente diversa rispetto alla lettura del libro stesso. Sì, sì, sì. Senti, rispetto al film, come Academy 2, dove lo avete incontrato, come avete deciso poi della distribuzione? Ma indubbiamente la nostra politica è sempre quella, nei confronti di alcuni autori che amiamo, di portarli in Italia un po' a prescindere da quello che è il titolo, se appunto abbiamo confidenza con l'autore ed è un autore sul quale crediamo. Quindi è successo con Brisset, che dopo La legge del mercato ci aveva convinto, anche se questo film, ripeto, è per alcuni versi ambientato e una storia completamente diversa, noi eravamo convinti che comunque Brisset dovesse continuare a essere distribuito in Italia, e così abbiamo fatto, come d'altra parte è successo anche per il russo Zyagintev, del quale abbiamo distribuito Leviathan, e a breve distribuiremo Loveless, che era in concorso a Cannes, e stessa cosa per Ozon con Franz prima e con La Man Double, che era in concorso all'ultimo Cannes, che distribuiremo quest'autunno. Quindi la politica di seguire per quanto possibile un autore di pregio è quella che un po' ci guida nelle nostre scelte. Alessandro, per Una vita che tipo di distribuzione avete scelto? Ma certamente è un film per sale di qualità, abbiamo un'uscita di circa 20 copie nelle, diciamo, migliori sale delle città principali, quindi senz'altro Torino saremo al Romano, a Bologna saremo al Rialto, a Roma saremo al Fiamma e al Nuovo Sacher di Nanni Moretti, e via dicendo. Sono circa appunto una ventina di copie nelle città principali d'Italia. Senti, in chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Certamente, sul nostro sito www.academy2.com potete approfondire tutte le informazioni. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Alessandro. Grazie ancora dell'ospitalità, un saluto. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film Una vita di Stéphane Brisset, in uscita in sala oggi giovedì 1 giugno. Roberto De Paolis, regista del film Cuori Puri, uscito in sala lo scorso 24 maggio. Roberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grande, grazie. Allora, ci dici, facciamo un bilancio di questa prima settimana di programmazione? Sì, un bilancio, non lo so, insomma, mi sembra positivo, data la stagione catastrofica del cinema. Questo film non sta nell'onda catastrofica, ecco, quindi meno male, perché siamo contenti. Bene. Senti, com'è andata al festival? Bene, mi sembra bene, perché il pubblico ha reagito bene, la critica anche, è stato emozionante, un po' frastornante farlo per la prima volta, perché insomma non sapevamo bene che cosa sarebbe successo, però mi sembra sia andata bene. Bene. Allora, Roberto, per chi ci ascolta, come lo descriveresti in breve? Cosa? Il film, come lo potremmo raccontare in poche note? Ma non lo so, non è semplice, non so bene che dire. È la storia di due ragazzi molto diversi che si incontrano e che, diciamo, questo incontro produce una voglia di cambiare, mettere in discussione la propria vita e perdere le proprie certezze, anche un desiderio di conoscere ciò che non si conosce, e dall'altra ovviamente si scatena la paura di tutto questo. Quindi credo sia un film un po' su questo conflitto, la necessità e la voglia di conoscere ciò che è diverso, ciò che può in qualche modo scatenare un processo di crescita, e la paura della stessa cosa, la paura di uscire da sé, di evadere da sé e di rischiare. Senti, un film di debutto, come nasce quest'idea? Nasce da fatti di cronaca, da storie che io avevo sentito, insomma, letto sul giornale, ho sentito in televisione, e da là è nato un percorso di ricerca piuttosto importante, perché questi fatti di cronaca in qualche modo riguardavano mondi che io non avevo, insomma, che non conoscevo personalmente, come quello delle comunità cattoliche, cristiane, contemporanee, e come anche il mondo della periferia, nello spaccato del problema del lavoro, della disoccupazione, della convivenza tra immigrati e italiani. E quindi si è sviluppato un lavoro di ricerca molto forte, ecco, soprattutto per non andare incontro a stereotipi e non affidarsi solamente alla propria fantasia, alle proprie idee, ma cercare di documentarsi realmente, ecco, su questi aspetti della vita. Ecco, proprio su questo, da questo punto di vista, com'è stato il lavoro dal punto di vista della scrittura? Come avete proceduto? Ti ho detto, soprattutto cercando di immergerci in un processo di ricerca, quindi abbiamo incontrato delle persone che potevano assomigliare un po' ai personaggi del film. E abbiamo chiesto loro di raccontarci un po' la loro vita, ma anche di spendere tempo con loro, quindi da una parte i ragazzi, appunto, tra i 20 e i 30 anni del quartiere di Tor Sapienza, ma un po' sempre al limite tra legalità e illegalità, tra occupazione e disoccupazione, eccetera, e dall'altra parte la comunità religiosa. Sono nello specifico due comunità dove io sono entrato, e poi dove sono entrati anche, insomma, dove è entrata anche l'attrice che ha fatto la protagonista. Insomma, abbiamo cercato di fare quello che avrebbero fatto i personaggi se fossero esistiti realmente, cercare di fare le loro esperienze, produrre i loro pensieri, avere un po' i loro rapporti, le loro abitudini, altrimenti scrivere di un personaggio è molto difficile, credo, se uno non si mette un po' nei panni, anche fisicamente, un po' come fanno poi gli attori anche. Mm-hmm. Senti, stavi continuando? No, scusami. Senti, rispetto, ecco, alla metropoli della marginalità, che impressioni hai avuto toccandola, verificandola, e che impressioni hai voluto dare rispetto al film? Ma guarda, la cosa più significativa di tutto questo percorso, per quanto riguarda la periferia, il problema del lavoro e dell'integrazione, mi è sembrato a un certo punto di capire meglio e più in profondità il problema della convivenza tra italiani e stranieri, diciamo, della paura da parte degli italiani di essere come gli stranieri, cioè questo tentativo di escluderli sempre, di ghettizzarli, di spedirli indietro, di non calcolarli, di non integrarli nella vita quotidiana e nella società, anche con violenza e aggressività da parte degli italiani. Credo che ci sia alla base un problema anche di sentirsi simili o paura di diventare come loro, cioè nel senso che ovviamente accostare gli immigrati alle fasce più svantaggiate a livello economico, culturale della popolazione crea una sorta di meccanismo, appunto, quasi di proiezione, cioè come una caccia alle streghe, dove poi i rom, i profughi, i rifugiati fanno un po' il ruolo dei nostri demoni, cioè nel senso la paura di, perché poi il destino che si condivide spesse volte è simile, cioè nel senso un ragazzo italiano che non ha soldi, che magari non ha una fissa dimora, con i genitori che vengono sfrattati, come è il protagonista del nostro film, non è così distante dal suo vicino rom che più o meno vive nelle stesse condizioni. E quindi c'è l'idea di condividere lo stesso destino con uno straniero, con un immigrato, con un rom, crea questo poi onda di repulsione, di aggressività, di violenza. Quindi questo, insomma, è una cosa che mi ha scioccato, ma dico non solo da un punto di vista di guerra tra poveri, chi si prende il pane, ma proprio a livello psicologico, cioè come una sorta di proiezione, capito? Delle proprie paure più profonde sul diverso, sullo straniero, e quindi quello innesca dei meccanismi insomma molto esplosivi. Senti, rispetto al cast? Rispetto al cast nulla, abbiamo scelto i due ragazzi più, secondo me, più bravi, più adatti, più disponibili a fare, poi a prendere in mano quel lavoro di ricerca che io a quel punto ho passato a loro in un certo senso, perché poi lei ha, diciamo, preso il mio posto e il posto degli sceneggiatori in questa comunità per prepararsi bene a questo ruolo. Lui ha preso il posto che noi stavamo frequentando lì in periferia, l'ha preso lui, e sono questi due ragazzi stati molto disponibili a costruire un personaggio nei mesi, si sono dedicati, sono andati appunto a frequentare i luoghi che avevo frequentato io, si sono immersi. Questo ci ha consentito poi anche di utilizzare tantissimi non professionisti, perché tutti i suoi amici nel film di lui sono ragazzi di periferia che io ho conosciuto, che poi ho presentato a lui, lui ha stretto delle amicizie, quindi poi queste amicizie le abbiamo riproposte nel film. E anche la comunità della ragazza è una vera parte di quei ragazzi, fanno veramente parte di una comunità che è la comunità che lei ha frequentato. Quindi insomma, i due ragazzi sono debuttanti ma attori, poi un parco di attori non professionisti molto folto, e poi abbiamo innescato qualche nome un po' più importante di attori più navigati. Ovviamente il problema era far coesistere queste tre dimensioni diverse, che fosse omogeneo, organico, ma insomma abbiamo fatto il possibile. Bene. Roberto, in quante sale Cuori Puri? Guarda, non lo so, dovrebbe essere in una cinquantina di sale in tutta Italia, e non so adesso se si è aggiunto qualcosa o qualcosa è diminuito, ma insomma la cifra è presta poco quella. Benissimo. 50 sale. Allora Roberto, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grande, grazie mille, grazie a te. Ciao. Roberto De Paolis, regista del film Cuori Puri, uscito in sala lo scorso giovedì 24 maggio. Andrea De Sica, regista del film I figli della notte, in uscita in sala, uscito ieri 31 maggio, ieri. Mercoledì 31 maggio. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, sempre per chi è all'ascolto, come lo racconteresti in breve il tuo lavoro? I figli della notte è un film che racconta la storia di un sedicenne mandato in collegio, disperso fra le montagne a 1500 metri, che in qualche modo è una sorta di palestra per la classe dirigente del futuro, e quindi, come dire, cercano di far diventare i ragazzi dei predatori spietati. E quindi un ragazzo invece ingenuo, non violento e normale, in qualche modo si ritrova travolto da questa impatto e questa situazione violenta. Senti, come viene fuori questo lavoro? E l'idea è nata agli anni del liceo, perché ho conosciuto ragazzi che andavano in collegio, ragazzi di buona famiglia, che, come dire, o erano violentissimi in modo anche inaspettato, oppure erano anzi persone che avevano trovato in collegio i legami più forti, insomma, della loro vita. Quindi questa doppia anima mi aveva molto stupito e ho deciso di raccontare un film. Senti, questa ambientazione ha delle basi reali, frutto di ricerca, come l'hai immaginata? Beh, il film ha avuto due fasi, perché all'inizio ho proprio parlato, ho conosciuto persone che erano state in collegio, però poi dopo c'è stata, diciamo, una trasfigurazione, per cui il film in realtà è ambientato in un grand hotel dell'Ottocento, come se fosse un film dell'orrore, e perché mi piaceva appunto concentrarmi di più sulla dimensione psicologica, mentale, importante, sì, insomma, di questo posto, che di fatto di fare una ricostruzione fedele alla realtà. Senti, ecco, rispetto anche a questo utilizzo di diversi linguaggi anche narrativi, un intreccio un po' di generi, per arrivare a comunicare cosa rispetto alla narrazione, al tipo di storia che volevi rappresentare? Diciamo che io lo chiamo in un modo un po' ibrido un thriller esistenziale, nel senso, sì, che il grande mistero di questo film è chi è in realtà questo personaggio. Tutto il film, come dire, cerca di rimanere su dei toni ambigui, sospesi, il meno possibile, insomma, più sfumati possibili, e c'è un finale che, diciamo, invece in realtà, che non racconto ovviamente qua, che invece ha proprio, invece vuole essere un cazzotto nello stomaco, e come tutti i film nelle strutture chiuse, un po' lo caratterizza, anche un po' come film politico di fatto, perché poi è un film che parla della nostra società, cioè esce di solito quando si raccontano le carceri o le scuole è sempre un modo in piccolo per raccontare una società. Ecco, rispetto proprio alla nostra società oggi, come vedi questo ambiente che ci circonda? Beh, nei fili della notte, come dire, c'è una visione molto pessimistica, no? Anche se poi è vitale, perché è la storia di un'amicizia, sì. E in qualche modo appunto non volevo tra l'altro schematizzare e relegare i figli delle famiglie benestanti soltanto giudicandole, oppure come di solito si fa con una freddezza di fondo. In realtà invece il film ha grossa, spero, che si capisca empatia, però appunto proprio per questo, proprio perché uno è riuscito, spero, di aver raccontato, come dire, più da vicino possibile questi ragazzi, poi se ne esce anche un po' scioccati. Senti, che percorso è stato quello della lavorazione a partire già dalla sceneggiatura? È stato un percorso lungo, perché fare un'opera prima non è facile, serve molta pazienza, molta determinazione, è durato 4 anni tutto il processo. La scrittura è stata lunga, ho avuto dei bravissimi produttori, Gregorio Paonessa e Marco Tonzelli, che mi hanno seguito. E poi in realtà il cinema funziona, non è che uno sta tanto ad aspettare, poi quando parte tutta la macchina in realtà è velocissima, perché poi costa tanto e quindi bisogna farlo in tempi serrati. Certo. E poi ho avuto questa fortuna, appunto il film non era quasi finito, non era neanche del tutto finito, che il Festival di Torino l'ha scelto come unico italiano in concorso, e da lì e siamo andati direttamente là. Senti Andrea, per quanto riguarda l'uscita, come l'avete pensata? Beh, l'uscita, diciamo che essendo un piccolo film, come dire, con un cartellone, appunto, più o meno noi che l'abbiamo fatto siamo quasi tutti sconosciuti, così, per cui stiamo uscendo adesso, però in realtà è un'ottima distribuzione, perché ha deciso di farlo uscire 01, che è una delle migliori distribuzioni che sono in questo paese, che sta difendendo molto il film e che l'ha posizionato in un sacco di bellissime sale in tutta Italia. E quindi ecco, insomma, mi sento fortunato da esordiente, tra l'altro con un film così strano, diciamo, di avere un'uscita, una visibilità di questo tipo. Senti, vista anche la lunga preparazione, mi parlavi di 4 anni, rispetto al punto di vista iniziale, si è trasformato poi tra le tue mani questo lavoro? Ma diciamo che è migliorato, però poi l'idea è sempre stata quella. Ok. Sì. A questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente sì, sul sito di 01 Distribution, sul sito della Vivo Film, che è la casa di produzione, e insomma potete vedere, cioè, c'è un trailer tra l'altro di cui sono molto fiero, che si vede anche su YouTube, e il trailer penso sia molto rappresentativo, insomma andatelo a vedere al cinema, perché bisogna sostenere il cinema indipendente italiano, e appunto almeno la mia idea è stata quella di fare un film diverso sull'adolescenza, o almeno diverso da quello che ho visto fino ad oggi. Bene. Andrea, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, grazie mille. Ciao. Andrea De Sica, regista del film I figli della notte, in uscita in sala ieri, uscito in sala ieri, mercoledì 31 maggio. Eccoci con Alessandro Zoppo della sesta edizione del Caravan Fest a Roma dal 6 all'11 giugno. Alessandro, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao a tutti, grazie mille. Allora, per chi ci ascolta e non conoscesse questa esperienza, raccontiamola dall'inizio. Com'è nato il Caravan Fest? Sì, Caravan è nato come un'esperienza un po' folle e spregiudicata che abbiamo messo in piedi nel 2012, io, Carlo Ottoni e Claudio Agnessi, poi si è aggiunta in un secondo momento Gaia Parrini, che è un'altra presenza fondamentale per noi. Ma io e Carlo venivamo da esperienze di lavoro comuni in festival di cinema, Claudio veniva dal presidio un po' del territorio con il comitato di quartiere, parliamo di Tor Pignattara a Roma, quartiere multiculturale, multietnico per eccellenza, e l'idea qual era? Era quella di raccontare proprio il vissuto del quartiere, delle varie comunità che lo abitano, e dei romani ovviamente in primis, facendolo però con una chiave programmaticamente non drammatica, ossia facendo vedere, proiettando commedie, road movie, racconti di formazione, documentari, ma che comunque avessero un'inclinazione appunto non drammatica. Non affrontare il tema un po' legato all'immigrazione, all'accoglienza, dalla prospettiva del racconto drammatico, bensì facendolo con il sorriso. Per noi è una chiave fondamentale, perché poi vivendo il quartiere siamo in contatto ogni giorno con persone delle comunità, e vivendo sappiamo benissimo insomma quali sono i problemi, sono gli stessi che affrontiamo noi ogni giorno. Da qui è nata l'idea del festival. Il festival si è tenuto per 5 edizioni nei luoghi più sparsi di Tor Pignattara. Quest'anno per la 6ª edizione, che sarà appunto, come già ricordato, dal 6 all'11 giugno, abbiamo deciso di tornare un po' alla nostra natura nomade e meticcia, e saremo un po' in vari cortili del quartiere, con l'apertura il 6 nel cortile del Pigneto della Biblioteca Mameli, e poi dal 7 all'11 un po' di cortili di Tor Pignattara per l'evento conclusivo, che poi si terrà domenica 11 a Largo Pettazzoni, che è un po' la piazza simbolo di Tor Pignattara, come, parlando di cinema, abbiamo visto anche un po' in molte sequenze di Fortunata di Castellitto, che sono state girate proprio lì dove c'è la bocciofila, ed è un po' il cuore pulsante del quartiere accanto all'acquedotto. Per cui per noi era centrale organizzare una grande festa, una festa un po' definitiva che chiudesse il festival in quel luogo. Senti, com'è stata la risposta in nelle precedenti 5 edizioni, e come si è sviluppato, come si è trasformato nel corso del tempo? La risposta è stata sempre molto positiva, in primis da parte dei cittadini di Tor Pignattara, perché è una cosa sempre un po' strana a dirsi, soprattutto quando la spieghiamo a persone non romane. Ma Tor Pignattara, che poi è un quartiere che non è neanche una periferia così estrema di Roma, ed è un quartiere anche abbastanza grosso, non ha un cinema, non ha una biblioteca, insomma ha pochissimi luoghi di aggregazione, di un po' di politica culturale. Per cui i cittadini in primis sono sempre stati presenti e molto contenti, tanto è vero che ogni volta che smontavamo lo schermo ci chiedevano: ma quando tornate? Diciamo sempre l'anno prossimo, e fino ad ora insomma siamo stati fedeli. Ovviamente la risposta è stata molto positiva anche da parte delle comunità che si sono viste rappresentate, in particolare quella bengalese, quella romena e quella cinese, perché poi sono le più numerosi presenti sul territorio. Da un punto di vista invece puramente tecnico, siamo cresciuti un po' con l'andare del tempo. Devo dire che dal 2012 al 2016 il festival è stato organizzato proprio da un punto di vista materiale, economico, soltanto con i nostri sforzi personali. Abbiamo organizzato una campagna di crowdfunding nel 2016, ma poi insomma la base è sempre l'associazione Bianco e Nero, che abbiamo messo in piedi e che porta avanti il progetto. Da quest'anno, grazie al supporto del progetto, del programma Migrarti del MIBACT, abbiamo avuto un supporto che per noi è fondamentale, quindi centrale anche per assicurare una proiezione di maggior livello e di maggior qualità per il pubblico che verrà a seguirci. Senti, per quanto riguarda i titoli, quali sono, quanti sono e quali sono stati anche i criteri di selezione? Allora, i criteri di selezione, io poi ne parlo nello specifico perché sono diciamo il programmer ovviamente insieme a Carla e Claudio, ma soprattutto insomma la mia, la volontà di combattere per determinati film. I criteri sono stati ovviamente legati in maniera principale alle comunità più numerose presenti sul territorio, per noi un aspetto centrale, e poi in un dialogo continuo con alcune realtà che sono sempre state con noi molto aperte al dialogo, come il Goethe Institute di Roma o il Forum Austriaco di Cultura, per raccontare un po' anche le nuove frontiere dell'Europa. Quindi inizieremo il 6 con una proiezione mattutina con un documentario austriaco che si chiama Kinders, che è diretto dai fratelli Rihai, che erano stati celebri per Everyday Rebellion, il documentario sulle forme di ribellione non violenta. E poi invece sempre il 6 apriremo al Pigneto con questo film bengalese, che è davvero una chicca perché presentiamo in anteprima europea, ovvero Kingdom of Clay Subjects, di questo giovanissimo regista, poco più che ventenne, che si chiama Bion, e lui ha raccontato in questo film qualcosa di davvero centrale, ovvero come nella storia di un bambino di 10 anni del Bangladesh rurale la conoscenza, lo studio sia davvero la forma di libertà suprema. E in questo film insomma vengono raccontati alcuni aspetti anche molto controversi del Bangladesh di oggi, ma è fondamentale anche perché ci fa capire molte cose sull'Islam e sulla religione che tante persone dovrebbero assolutamente centrare. Sembra in apparenza un film molto drammatico, in realtà ha una chiusura e dei toni molto lievi e delicati che fanno un po' pensare a De Sico, a Ra, insomma a Kiarostami, cioè il cinema che ha raccontato meglio l'infanzia. Il 7 abbiamo un film tedesco molto interessante, 300 parole in tedesco, che è proprio la classica commedia multietnica, e sarà molto particolare l'evento perché sarà presente l'attrice protagonista, Pegase Ridoni, che è un'attrice che magari in Italia dice poco, ma in Germania è molto famosa. Lei è iraniana, naturalizzata tedesca, quindi un po' il simbolo delle G2 delle nuove generazioni tedesche, ed è diventata famosa soprattutto perché è stata una delle protagoniste di Kebab for Breakfast, che era una serie televisiva che era passata anche in Italia su MTV, in Germania ha un grande successo. Per la Cina abbiamo invece Kid from the Gapple, che è un film di una regista malese, Jess Tong, che anche in questo caso ha un cast pazzesco, perché il ruolo del nonno è interpretato da Ti Lung, che è un attore leggendario di Hong Kong, un protagonista di Better Tomorrow di John Woo, e la figlia invece è interpretata da Jessica Suan, che è un'altra attrice famosissima in Cina. Anche questa è una commedia che racconta un rapporto tra generazioni, un ponte tra Oriente e Occidente. Per la Romania abbiamo l'anteprima italiana, anche di questo sono molto felice, di Eastern Business, di Igor Kobilianski, che è il suo secondo film, e in questo caso ci racconta una commedia on the road, che è proprio un atto, un omaggio, un tributo alla migliore commedia italiana, e anche in questo caso, insomma, così riapriamo i ponti. Sabato invece c'è una proiezione speciale, perché da quest'anno abbiamo anche una partnership con il Cinema di Ringhiera di Milano, che è un festival omologo al nostro, organizzato tra gli altri da Antonio Gugliaro, uno dei registi di Osto con la sposa, e loro verranno da Milano a presentare questo film, ovvero il documentario di Haja Labib, Passion Passions, in cui si racconta la storia di queste donne che negli anni 60 si sono trasferite a seguito dei mariti dal Marocco al Belgio, e che 30-40 anni dopo, insomma, ripercorrono il proprio passato e cercano di dare una nuova impronta alle proprie vite. Infine domenica, per la festa di chiusura di cui accennavo prima, a Largo Pettazzone, proietteremo due film, ovvero un documentario breve che si chiama La Polverera, che racconta uno scorcio di Roma abbastanza sconosciuto, ovvero quello della Polverera, che è un campo di calcio che è a Colleoppio, in cui praticamente ogni domenica si ritrovano centinaia di donne, soprattutto sudamericane, che organizzano questi fantastici tornei di calcio. In realtà l'occasione ovviamente è un pretesto, perché la parola d'ordine è quella dell'integrazione, dello stare accanto. A seguito poi proietteremo Giulia Dolores, che è una commedia brasiliana molto divertente, ritmata, una sorta di crime comedy che ci racconta nel Brasile del 1900, tra l'82 e l'83, il tempo di crisi e le soluzioni per illuminare le paure. Ecco, illuminare le paure è proprio la tematica, il fil rouge del festival. Speriamo di raccontarlo al meglio con i film che abbiamo selezionato. Allora, in chiusura, visto che abbiamo parlato di cinema, come vedi tu Torpignattara oggi? Bella domanda. No, guarda, noi siamo partiti da questa convinzione, ne siamo proprio certi. Torpignattara è il laboratorio della società del futuro in Italia. Basta farsi un giro per il quartiere, basta andare un giorno qualsiasi in una qualsiasi scuola, come può essere la Pisacano, la Deledda, per vedere come in realtà i discorsi spesso futili che si fanno sull'accoglienza e sull'integrazione partono dal basso. Quindi Torpignattara è ormai una realtà consolidata da questo punto di vista, e noi con questo piccolo grande festival pensiamo di raccontare tanti angoli che vengono spesso trascurati o sconosciuti. Purtroppo poi lo sai bene, quando soprattutto nei media un po' più generalisti si racconta il quartiere, lo si racconta soprattutto con episodi un po' che lasciano il tempo che trovano di cronaca, ma non è così. Basta venire a una qualsiasi delle nostre proiezioni e ve ne renderete conto, ci auguriamo. Chiudiamo con tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, sito ufficiale www.caravanfest.it, caravan scritto con la K e la W. Ci trovate anche su Twitter e su Facebook, Caravanfest, sempre con la K e il W. Alessandro, un abbraccio e a presto. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi. Ciao. Alessandro Zoppo della sesta edizione del Caravan Fest a Roma dal 6 all'11 giugno, e con lui terminiamo i collegamenti della puntata di questa settimana, giovedì 1 giugno del 2017, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Come sempre anche sul sito, sempre sull'home page c'è la trovate tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il cinema su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. È tutto, buon proseguimento.